Zot. Fulminati in azienda. Cuccipare, cuccipisci. Permesso. Maga, possiamo. Buongiorno, Maga. Buongiorno, Maga. Maga, siamo disperati. No, Maga, siamo alla ricerca di idee innovative, ma non ci riusciamo. Se spremiamo, ma non esce niente. È come essere stitici. Ma per piacere, ma che brutta metafora. Ma che sei, dalla ricerca della formula magica, come tutti? Sì, per l'innovazione, mica c'è la magia. Però se volete, con 200 euro, consultiamo la sfera di cristallo. Maga, consultiamo, facciamo, non c'è problema. Allora, vedo, non vedo. Ma che è la danza dei sette veli? Silenzio, vedo la gozza. I nostri concorrenti. C'è una formula conservata in un casciolo, in un cassetto del presidente. Vedo due laci. Sì. Li vede? Sì. Uno di mezza età. Ma e uno più giovane che pare uno strano idioma. Quello più vecchio assomiglia a lei. A lei? C'è anche una donna qui. A lei tu, deficiente, assomiglia a te. Allora, mi faccia capire se ho capito, Maga. Lei vede centrifuga e pacco che si intrufoleranno e ruberanno la formula magica, la Goz. No, questo l'ha detto lei. Ecco, vedi, allora c'era la donna. C'era lei. L'ho detto io, ma ci andrai tu. Ma allora è di cosa? Ma non ci penso neanche. Io ladro mai una per vita. Per piacere, il futuro è scritto, Centri. Lo farai per la nostra azienda. Cioè, posso dire una cosa sull'innovazione? Se non siete bravi a inventare, hai imparato a rubare. Insomma, Marco, ma sei proprio sicuro che non si faranno scoprire? È una cosa rischiosissima questa. Tutto studiato alla perfezione, Marta. Si sono presentati come tecnici della luce e si sono nascosti nello sgabuzzino della fotocopiatrice. Mi ha mandato un SMS, Centri. Sì, ma è un furto? Un furto di nuovo? Ma sembra un furto. Per piacere, silenzio. Siamo mica nati ieri. Da sempre l'intelligence delle aziende si confronta per l'innovation. Scusate un attimo, eccola qui la nostra intelligence dal territorio nemico. Metto in viva voce. Pronto, passo. Pronto, capo. Siamo rimasti chiusi dentro sgabuzzino. Ma siete deficienti? Ma adesso come facciamo? Bisogna prendere la formula. No, niente paura, l'avemmo presa. Ah. Siamo entrati nell'ufficio del presidente con la scusa di provare il circuito e avemo sfornato il cassetto centrale. Bravi. L'hai trovata? C'era un bustone con scritto riservato. Sicuramente contiene la formula. Bravissimi. Ma com'è che siete finiti nello sgabuzzino? Non capisco. Avemo sentito dei passi e se siamo nascosti qua dentro. Solo che il presidente si è piazzato davanti e poi è passata a guardia che ha chiuso a chiave. Non c'è problema, Centri. Aspettate domani mattina. Che stiamo senza magnà? Siete sul fronte, Centri. Combattere, soffrire e digiunare. Allora, la formula risulta un preparato innovativo per il settore food. Appena capita cos'è, lo piazzeremo in tutti i supermercati. Ottimo, Marta, ottimo. Però mi raccomando, dobbiamo arrivare prima di Goz. Certo. L'abbiamo già distribuito in mensa, mettendolo nelle lasagne. Aspettiamo il feedback dei dipendenti. Capo! Dimmi, capo, un disastro. Ci stanno gli uffici vuoti. Ma come vuoti? Dove sono tutti? Bisogna lavorare qui. Stanno al bagno. Ma come? Abbiamo fatto un casino. Dalle analisi dei laboratori, la formula era un preparato lassativo. No. Beh, un lassativo è comunque un prodotto essenziale. E mi sa che non era manco una formula di laboratorio, perché dopo gli ingredienti c'era scritto: per i tuoi problemini, un cucchiaio la sera, firmato zia Peppina. Ma chi è zia Peppina? Chi è? Pensavamo a un messaggio cifrato, invece è proprio la zia del presidente da Goz, che evidentemente c'ha qualche problemino di regolarità. E la zia gli ha fatto avere il suo preparato magico. Va bene che non sappiamo innovare, ma non sappiamo neanche rubare. NCS. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.